Personalmente sicuramente mi piacciono molto i catamarani perché mi piace la velocità, insomma. Vedo che comunque ci sono i migliori velisti al mondo sopra le barche, sono poi fondamentalmente quelli che erano anche sui monoscafi, per cui questo già sta a indicare che in ogni caso la vela è sempre vela, cambia solamente il mezzo, bisogna solamente adattarsi a magari a una strategia, una tattica di regata che ha dei timing diversi, ma poi fondamentalmente tutto rimane uguale. Eh sì, insomma, il personale di bordo, diciamo così, non cambia, questo è garanzia quantomeno di continuità tecnica al di là del mezzo. Alessandra, un'ultima cosa. Pensando a Londra 2012, come ti immagini e cosa ti aspetti da queste Olimpiadi? Beh, 2012 Londra sarà la mia sesta Olimpiade, quindi già un bellissimo traguardo, però è un traguardo che voglio affrontare cercando di sfruttare tutta l'esperienza che ho e quindi cercando di fare meno errori possibili e insomma di dare il massimo. La voglia è quella di andare là ovviamente per lottare, per vincere. E allora Alessandra Sensini, grazie di essere stata oggi nostra ospite qui a Radio 24 a bordo campo, buon vento, no? Si dice così? Grazie. E la sicurezza, la certezza conta pure sugli ascoltatori di Radio 24 che sono sicuro che da questo istante cominceranno a soffiare nella tua vela, è una bella spinta allora, in più. Soffiate forte, sempre di poppa. Grazie a voi. Pochi istanti di pausa ora, poi ancora insieme qui a bordo campo.